Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Benvenuti, anche oggi l'appuntamento con le notizie di salute è dedicato al coronavirus. In linea con noi il dottor Giuseppe Ruocco, segretario generale del Ministero della Salute. Dottor Ruocco, buongiorno. Buongiorno. Partiamo da una notizia che è stata appena battuta dalle agenzie. Due casi sospetti di coronavirus sono in questo momento in isolamento in un ospedale di bordo di una nave ferma al porto di Civitavecchia. Dottor Ruocco. Dunque, ovviamente in questi giorni avete visto, c'è un fiorire di casi sospetti che alle volte neanche rispondono alla definizione di caso sospetto definita data dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. È vero che c'è una nave con dei passeggeri non italiani, due passeggeri non italiani, anzi la verità è uno l'ammalato, di cui stiamo verificando la storia clinica. Abbiamo già prelevato dei campioni per fare le analisi di laboratorio, ma al momento la situazione è assolutamente tranquilla, la nave è ancorata in porto e stiamo procedendo con tutte le altre operazioni di verifica degli altri passeggeri, anche per consentire lo sbarco di coloro che devono scendere a Roma, se ce ne saranno le condizioni, come posso ipotizzare, anche se nulla è ancora deciso in termini definitivi. Ma noi siamo assolutamente tranquilli, d'altronde adottiamo anche in questo caso le procedure che abbiamo adottato su un aeromobile, né più né meno. Dottor Ruocco, per gli altri passeggeri, quindi controlli? Saranno certamente controllata la temperatura di coloro che sono destinati a scendere in questa tappa, che era già prevista, Civitavecchia era già una tappa della crociera, e saranno presi tutti i contatti per poterli poi seguire ove il caso risultasse effettivamente positivo. Ma guardi, fino ad oggi tutti i sospetti si sono tutti rivelati non casi positivi. Questo per nostra fortuna, sappiamo che in Europa ce ne sono state circa una decina in vari paesi, quindi in Francia, in Germania e in Finlandia l'ultimo, e quindi seguiamo l'evoluzione ma mantenendo tutti la calma. Tranquilli, dottor Ruocco, nonostante in Italia non ci siano casi accertati, la paura ha fatto scattare la caccia alla mascherina. Sala, il fatto che si è di fronte a qualcosa che non è completamente noto, anche se a differenza della SARS sappiamo molto di più. Nelle fasi iniziali della SARS si sapeva molto poco, i cinesi erano poco collaborativi. Questa volta è successo esattamente il contrario, addirittura la struttura genetica del virus è stata resa subito disponibile e ha consentito di mettere su un test diagnostico. E questo è un passaggio importante. L'altro sono state le grandi misure adottate in Cina, che vedete tutti i giorni, e che certamente aiuteranno a debellare questa l'epidemia in Cina, che l'epidemia in Cina, ricordiamo, sono in Cina. Quindi acquistare mascherine e fare altre cose del genere non ha senso per due ordini di motivi. Uno, perché non c'è allarme in Italia, e secondo perché la mascherina deve essere indossata eventualmente dal malato sospetto nelle fasi prima del ricovero in una struttura di isolamento per evitare di infettare altri. Che il sano si metta la mascherina non è indicato dall'OMS e non è una misura di sanità pubblica nazionale. Quindi niente mascherina. Dottor Ruocco, grazie, la ringrazio per essere stato con noi. La programmazione prosegue con Melog, io vi aspetto in diretta Facebook. Buona giornata da Nicoletta.